e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dove hai visto la partita ieri sera? A casa, con amici, sì. Figlie, e dato che squadra che vince non si cambia, certo. Mi sono aggiudicata... Soprattutto quella degli azzurri di ieri sera. Quindi ecco. Mi sono vinta e aggiudicata anche le prossime partite. Quindi il 17 e il 22 sarò di corvée e credo che mi farò suggerire qualche idea per dei menù tricolore, rapidi, gustosi e anche economici. Perché anche sai il che 17? Il tifoso magna. Eh sì, c'è la partita. Vabbè, poi su questo discutiamo c'è a microfoni partita. Spenti. Io invece ero bella spaparanzata sul divano con il gelatone, perché in questi casi si sa, si fa fatica a resistere alla tentazione dell'accompagnamento goloso. Però pensa che la COP ha stimato in 145 milioni di euro l'impatto di denari che la manifestazione sportiva appena iniziata potrà generare sui consumi degli italiani, considerando le vendite dei principali mercati alimentari. E quindi, se l'Italia va avanti, si avvicina alla finale, anche l'economia gira di più. Però, qua ti chiedo un commento autorevole. Dei consumi aggiuntivi, il 27% sarà speso in birre, il 23% in gelati, il 9% rispettivamente per affettati, bevande gasate e mozzarelle. E qua poi arriva la prova costume e tu devi correre in nostro aiuto. Senti, non ti preoccupare, intanto non posso commentarlo perché sennò poi il nostro amico dice che faccio la maestrina, quindi ognuno mangi quello che più gli piace. E non l'architetto, dinner, un altro amico. Ecco, il TV dinner si sa è fatto con cose pronte che smangiucchi sul divano, sì. Però uno studio inglese ha rivelato, pensa, i dati io non so, ve li dico, ma secondo me sono un po' tirati per i capelli, comunque intanto per dirvi che ha rivelato che durante una partita un tifoso consuma in media 934 calorie tra alzarsi dal proprio posto, urlare, esultare ad ogni gol. In questo caso del calcio, eccolo. Due. Anche se non si ragiona più, lo sappiamo bene, in termini di calorie, qua lo dico e lo sottolineo, è comunque sempre un indicatore valido, no? Quante calorie bruci. Comunque, secondo me, Deborah, il tuo gelato tu l'hai smaltito. E dici? Poi con tutte le al buone palestre che fai. Al secondo gol di Pelé l'ho smaltito. Sì, adesso andiamo intanto con la rassegna stampa. Sì, ieri sera l'ho fatta prima della palestra. Vedi, perché il gelato me l'ero meritato. Dai, prima evviva. Della partita. Via! Allora, partiamo dalla borsa, un'altra giornata di volatilità molto alta. Stamattina, dopo i nuovi profondi ribassi di ieri, il mercato era partito di nuovo male, poi ha recuperato tutto, adesso scende tutto di nuovo. Parigi meno 1,31, Francoforte meno 1,15, Londra in ribasso di un punto, Milano meno 0,8%, tutta colpa dello spauracchio Brexit, il referendum della Gran Bretagna sulla permanenza dell'Unione Europea tra 10 giorni. È questo l'evento che penalizza ancora i listini continentali che hanno aperto la settimana appunto in rosso. Tutto questo in attesa anche della riunione della Banca Centrale Americana, che è iniziata oggi per l'esattezza. Si riunisce il FOMC, il Federal Open Market Committee, il braccio operativo della Federal Reserve, che deciderà sui tassi di interesse che rimarranno presumibilmente fermi negli Stati Uniti, anche perché chiaramente l'attenzione è tutta concentrata sugli eventi europei. Altri effetti del grande nervosismo di questi giorni li abbiamo visti molto dirompenti questa mattina sul mercato obbligazionario. C'è un nuovo record molto preoccupante, il rendimento negativo che per la prima volta nella storia ha toccato il Bund tedesco, il titolo decennale appunto della Germania, che ha toccato prima un minimo praticamente a zero per poi scivolare sotto. Lo spread fra BTP e Bund è 148 punti base, insomma mercati che fanno i conti con tutte queste turbulenze legate all'avvicinarsi del voto sulla Brexit, e quindi teniamo con grande un po' di anche preoccupazione sotto osservazione i mercati in questi giorni. Poche le banche peraltro che recuperano, ma andiamo avanti su altre notizie. Raggiungono quota 100% le adesioni degli obbligazionisti italiani rappresentati dalla Task Force Argentina all'accordo per il rimborso dei Tango Bond, tema che abbiamo affrontato tante volte, ricorderete. Ricordiamo che questa fase segue il recente accordo con la Repubblica Argentina per il rimborso dei bond e prevede, per chi non ha accettato negli anni passati le offerte del governo argentino ma ha portato avanti la battaglia della Task Force italiana, il rimborso del 50% del valore nominale di quanto investito. Il presidente della Task Force Argentina, Nicola Stock, si è dichiarato molto soddisfatto per questa novità, ma soprattutto per la procedura di informazione agli obbligazionisti interessati che si sono recati a firmare il modulo di adesione presso le proprie banche, ed è stata un'operazione che ha detto che è stata condotta dalle banche italiane appunto con grande efficienza. A questo punto, come previsto dall'accordo, a partire dal 30 giugno inizieranno i pagamenti sui conti degli obbligazionisti. Una notizia veloce che io però vi anticipo già, voglio approfondire domani a Cuore Denari. I big dell'energia, Acea, Edison, Eni, Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico, sono finiti di nuovo nel mirino dell'antitrust e dovranno pagare una multa complessiva di 14,5 milioni di euro per pratiche aggressive nella fatturazione dei consumi. Decisione che segue le denunce partite da molte associazioni dei consumatori, ma anche da tanti singoli utenti e, se ci dobbiamo mettere tutti, anche dai microfoni di Radio 24 e Cuore e Denari. Quindi domani, vi anticipo già, parleremo di questo argomento. Se siete un po' in questo momento in una fase di conflittualità e contestazione con il vostro distributore, appunto, dell'energia, perché vi fattura consumi non che secondo voi, appunto, non avete effettuato, cominciate già a chiamarvi e vi racconteremo bene la storia della multa dell'antitrust. Allora, anche se non vogliamo occuparci dell'economia, l'economia si occupa di noi, Nicoletta. Ci viene dietro, ci insegue, ci perseguita e lo fa ogni volta che facciamo ogni azione, che compiamo ogni azione. Certo. Esatto, sia quando cerchiamo un lavoro, quando riceviamo lo stipendio, quando paghiamo le tasse, quando risparmiamo. Insomma, sono tutte occasioni di incontro e scontro fra noi e l'economia. Ecco perché ne dobbiamo sapere di più. Anche dai microfoni, appunto, di Cuore e Denari vi raccontiamo spesso e volentieri le tantissime iniziative che ci sono in Italia sul tema dell'educazione finanziaria e della divulgazione finanziaria, anche se sempre i sondaggi, le analisi, gli studi continuano a raccontarci invece di una popolazione che su questi temi è poco sensibile e ne vuole approfondire pochi. Con questo presupposto è partita la nuova iniziativa editoriale del Sole 24 Ore, L'economia per la famiglia, una nuova collana che racconta i segreti dell'economia in termini comprensibili a tutti, in particolare ai giovani. L'economia per la famiglia è a cura di Fabrizio Gallimberti, sarà in edicola per tutta l'estate con due appuntamenti settimanali, uno al martedì e l'altro al mercoledì. Si inizia oggi e domani con il primo numero dedicato all'inflazione, moneta e tassi, tema più che mai attuale, direi, ma vorrei che qualche dettaglio in più ce lo raccontasse Marco Lo Conte del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Buongiorno allora, a tutti. Eccoci qua. La prima cosa che voglio chiederti è, visto che si è appena conclusa l'operazione sempre del Sole 24 Ore di distribuzione, pubblicazione del manuale di educazione finanziaria I tuoi soldi, qual è la differenza fra le due iniziative? Allora, nella collana I tuoi soldi ci siamo concentrati proprio sull'aspetto del denaro, della finanza personale, cioè su come gestire, come scegliere un conto corrente, come scegliere un piano pensionistico, come scegliere degli strumenti finanziari e assicurativi che ci servono nella nostra vita. Nell'economia per la famiglia proviamo ad allargare un po' il nostro raggio d'azione per capire qual è il contesto in cui ci muoviamo. Voi dicevate giustamente prima, se voi non vi occupate dell'economia, l'economia si occupa di voi, ma perché noi siamo all'interno di un contesto che è sociale, che è politico, che è di amicizie, di relazioni, ma che è anche fatto di scelte economiche, cioè siamo consumatori da una parte, siamo produttori dall'altra e quindi siamo parte di un meccanismo di cui dobbiamo essere consapevoli. Certo, non tutto ci può piacere, magari questo è legittimo, però essere consapevoli è assolutamente fondamentale. Per esempio, siamo sicuri che la discesa dei prezzi sia un bene assoluto? Perché paghiamo di meno gli oggetti, però se questo meccanismo accelera, si avvita, l'inflazione si tramuta in deflazione ed è altrettanto pericoloso rispetto alla crescita eccessiva dei prezzi, per cui bisogna essere consapevoli. Per esempio, no? si parla ultimamente di helicopter money, cioè del fatto che che Mario Draghi arrivi con questo mezzo a far piovere denaro su tutti noi. Noi siamo qua già da questo splendido palazzo del Sole 24 Ore con tutte queste vetrate. Siamo aspettiamo con la retina, con retino da pescatore, pronti a raccogliere le banconote. E non ci sono più quelle da 500 euro, vorrei ricordarlo. Ancora ci sono poche. Dovremmo fare ancora più fatica sostanzialmente per raccoglierne di più. Ma questa è un'idea che non nasce oggi, è un'idea del 76. Pensate, il premio Nobel dell'economia Milton Friedman l'aveva ipotizzata come quasi un paradosso, però dicendo può funzionare a patto che sia un evento unico e che per una volta sola la gente possa prendere tutti i soldi che può necessitare, ma poi successivamente bisogna tornare assolutamente alla normalità. Ecco, siamo veramente sicuri di sapere come funziona il mondo economico in cui siamo assolutamente calati e immersi? Ebbene, purtroppo molte indagini che voi stesse avete citato poco fa denotano come gli italiani siano sì legati per esempio al risparmio, ma non sappiano risparmiare straordinariamente bene. Le cognizioni in materia sono un po' deficitarie e noi, come Sole 24 Ore, cerchiamo di colmare queste lacune provando a quotidianamente, sul quotidiano, sul sito e in tutte le forme, con Radio 24 assolutamente, cerchiamo di fornire degli elementi di conoscenza, poi ognuno ne fa quello che vuole. E per esempio questa, prima i tuoi soldi e ora l'economia per la famiglia, va a colmare proprio questo vuoto, spingendo poi su un tema che poi c'è anche un dibattito politico, legislativo, no? Per esempio c'è un po' di polemica nelle ultime ore, da ieri, sull'operato della Consob con le vicende delle quattro banche salvate, Calenda, il ministro a Radio 24 da Minoli, proprio ieri da Minoli ha sottolineato la carenza di trasparenza di molti strumenti finanziari. Ebbene, un contesto economico in cui le persone rischiano di essere... vorrei usare un altro termine, però insomma fregate sostanzialmente, da un'asimmetria di informazioni, cioè dal fatto di saperne meno di chi ci vende gli strumenti finanziari. Ebbene, questo è un danno anche per i furbi, per chi riesce a compensare queste carenze. Grazie Marco, purtroppo devo interromperti perché qua il traffico chiama, è tardissimo, ma abbiamo capito perfettamente lo spirito di questa iniziativa. Ricordo, da oggi in edicola con il Sole 24 Ore, l'economia per la famiglia, inflazione, moneta e tassi bassi, il tema del primo numero, domani c'è crescete e moltiplicatevi, un focus anche sulla demografia. Ricordo solo una terza cosa, che ieri si è svolto a Roma un seminario organizzato dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati per fare il punto della situazione sul disegno di legge sull'educazione finanziaria che verrà calendarizzato già da oggi. Ci sono stati molti commenti tra i vari partecipanti, appunto ricordiamo che in questo momento sono 3 i progetti di legge in discussione sull'argomento. Si sta parlando della necessità di varare una cabina di regia che coordini tutti gli interventi sul tema, una strategia unica, probabilmente appunto già la discussione potrebbe iniziare il 21 giugno. Grazie a Marco Lo Conte, traffico a tra poco. Cuore e denari. E siamo tornati insieme ed è tempo della nostra rassegna stampa di salute. 80.000 i farmaci illegali sequestrati nei principali aeroporti italiani tra il 30 maggio e il 7 di giugno. Questo è il bilancio della nona operazione Pangea, un'iniziativa internazionale di contrasto al mercato di farmaci illegali e contraffatti, a cui anche quest'anno ha aderito il nostro paese. Secondo le autorità competenti, cresce il numero di connazionali che si rivolge a canali non ufficiali, come ad esempio siti web non autorizzati per l'acquisto dei medicinali. Tra i farmaci intercettati figurano analgesici, antivirali, ma soprattutto i farmaci per il trattamento della disfunzione erettile, che rappresentano oltre 60% del materiale sequestrato. Vogliamo commentare naturalmente questa notizia con Andrea Salonia, urologo andrologo presso il Dipartimento di Urologia all'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano e anima di Salute Uomo, il progetto di Cuore Denari dedicato proprio alla salute maschile. Ciao Andrea, bentornato, ciao, grazie. Ciao Nicoletta, ciao Deborah, ciao, buongiorno a tutti. Ma io trovo che la notizia sia da prendersi in considerazione da 2 punti di vista. Il primo è che purtroppo è più che vera e trovo che l'operazione Pangea sia di per sé di enorme importanza, proprio perché il web e i siti illegali veicolano nella quotidianità informazioni assolutamente false, erronee, su prodotti che sono totalmente contraffatti. E se immaginate che quest'anno uno di questi, Viagra, compie 18 anni, vi rendete conto di quanto questi ultimi 18 anni siano stati importanti per la creazione di un mercato totalmente inesistente prima. Purtroppo i prodotti contraffatti contengono molecole che non sono molecole originali. Questo vuol dire che le analisi fatte e pubblicate in letteratura riportano addirittura di un contenuto, ad esempio, di talco, che è enormemente lesivo per la salute dell'individuo. La situazione italiana è totalmente diversa rispetto a quella ad esempio inglese, dove esistono addirittura delle farmacie online che vendono e provvedono a spedire ovunque prodotti che sono assolutamente ufficiali e regolari, quindi vuol dire di ottima qualità. Questo non succede in Italia ed è il motivo per il quale ad oggi Pangea ritrova che il 60% dei prodotti smerciati illegalmente afferisca a questo gruppo. che è ancora così importante perché? Perché il mercato fa sì che ad oggi esista un farmaco genericato, Sildenafil, il cui brand commerciale è appunto Viagra, i costi si siano in parte abbassati, ma l'avere una buona qualità di vita purtroppo è ancora costoso. L'altro aspetto importante, esiste ancora nel mondo italiano una reticenza significativa all'andare ad acquistare un farmaco in farmacia, perché l'abbiamo detto tante volte a Salute Uomo, esiste ancora una sorta di virilità che si vuole preservare e di vergogna purtroppo a farsi aiutare in un contesto quale quello della farmacia appunto, dove chiedere un farmaco risulta essere ancora di vergogna. Grazie ad Andrea Salogna per il commento. Naturalmente vi rimandiamo a riascoltare le puntate di Salute Uomo, qui abbiamo preso in esame tutti i vari problemi e soprattutto abbiamo puntato molto sulla prevenzione. Salute Uomo torna come sempre l'ultimo venerdì del mese. Grazie ad Andrea Salogna. Grazie Nicoletta, grazie a tutti, arrivederci. E continuiamo la nostra rassegna stampa ricordandovi che oggi si celebra in tutto il mondo la giornata del donatore di sangue. Questa è una bellissima occasione per ringraziare tutti i donatori. Sappiamo che molti degli ascoltatori di Cuore Denari sono donatori, li ringraziamo. E nello stesso tempo è un'occasione per promuovere la cultura del dono. Il tema dell'edizione di quest'anno è Il sangue ci unisce, mi piace molto questo tema e tra l'altro l'Avis sottolinea che con una singola donazione si possono aiutare fino a 3 persone. Il sangue, lo sappiamo, non si produce in laboratorio e il fabbisogno è naturalmente in aumento. L'impossibilità d'altronde di ottenerlo tramite procedimenti chimici e il suo larghissimo impiego lo rendono un presidio terapeutico preziosissimo. La maggior parte di noi può donare il sangue, molti, almeno una volta nella vita, potrebbero proprio averne bisogno, quindi se volete conoscere i requisiti necessari per la donazione, fate un salto sulle nostre pagine dove troverete il link alle associazioni di donatori e anche alle nostre puntate. E oggi, tra l'altro, con un doodle speciale, Google ricorda la nascita di Karl Landsteiner, biologo e fisiologo austriaco, scopritore dei gruppi sanguigni e premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1930. Allora, siamo venuti grandi ascoltandole, a nostra volta probabilmente le abbiamo cantate ai nostri figli, forse proprio le stesse con cui ci addormentavamo da piccoli. Parliamo di Ninna Nanna. La Ninna Nanna piace a chi la canta e a chi l'ascolta e fa bene. La ricerca dimostra quello che le mamme, sin dalla notte dei tempi, avevano intuito. Una filastrocca cantata dalla mamma e dal papà tranquillizza i neonati molto più a lunghe rispetto alla voce parlata. I dati raccolti da una ricerca canadese lo mostrano e noi vogliamo invitarvi ad andare sulle nostre pagine, riascoltare l'intervista della nostra esperta e adesso diamo la linea al GR e ritorniamo subito dopo. Proprio come voi, di chiacchiere non ne possiamo più ed è per questo che ci occupiamo solo dei fatti. Un'ora di informazione dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, con servizi, interviste e analisi. Vi aspetto con tutta la redazione di Radio 24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Da lunedì a venerdì alle 13 con Simone Spezia. Il segnale orario vi è offerto da... Vendi bene e incassa meglio. Assicom, marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Per favore, sul marciapiede. Per Le riproponiamo in radio, ma naturalmente molti di voi le avranno viste in televisioni, delle immagini che hanno ricostruito la tragedia di via Brioschi a Milano. Una tragedia che ci ha suggerito di occuparci, dunque, ci sembra un tema assolutamente pertinente per Cuore e Denari, della sicurezza delle nostre abitazioni. Le immagini dello stabile di Milano ci hanno colpito molto. Com'è possibile che una fuga di gas nel 2016 sventri in quel modo un edificio? Che controlli non sono stati fatti? Quali segnali non sono stati considerati? D'altronde il gas è in uso in tutte le nostre abitazioni, no Nicoletta? Lo usiamo per cucinare, scaldare l'acqua. Cosa allora sottovalutiamo o rischiamo di sottovalutare? La ricostruzione di quanto accaduto a Milano è in mano alle forze dell'ordine. Questa mattina anche molti giornali appunto ne parlano diffusamente. Anche il Comune si sta mobilitando, per fortuna si è preoccupato immediatamente di ospitare in albergo le famiglie che appunto, a questo punto dobbiamo parlare al passato, vivevano negli appartamenti di via Brioschi e via Portoferraio, che sono stati giudicati inagibili dai vigili del fuoco, ma forse è il caso di tornare a formulare tutte le raccomandazioni del caso per evitare che tragedie del genere si verifichino, per scongiurare incidenti e situazioni di pericolo per noi, le nostre famiglie e i nostri vicini di casa. Allora abbiamo pensato di interpellare un esperto questa mattina, dottor Michele Ronchi, direttore generale del CIG, il Comitato Italiano Gas, che saluto e ringrazio di essere con noi questa mattina. Buongiorno dottor Ronchi, benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Grazie per la sua disponibilità. Allora, ieri Repubblica scriveva che l'anno scorso i vigili del fuoco hanno prestato soccorso a seguito di oltre 23.000 chiamate dovute a fughe di gas. Gli incidenti sono stati nel complesso 246 e ben 39 persone hanno perso la vita. Quasi la metà di queste vittime, il 42%, è morta per un errore umano, una distrazione, una disattenzione. Dottor Ronchi, io le chiedo subito un commento sul caso di Milano e su queste cifre. Sono ancora troppo alte o li considerate, passatemi il concetto, numeri fisiologici, considerata anche la qualità di molti immobili che ci sono in Italia? Provo a razionalizzare un attimo l'argomento. Chiaramente sul caso specifico di Milano sono in corso le indagini della magistratura, io non ho elementi per poter fare dichiarazioni in merito alle cause presunte, verranno accertate. Detto questo, per quanto riguarda gli incidenti, noi produciamo come Comitato Italiano Gas, perché ce lo chiede l'autorità per energia elettrica, il gas e il sistema idrico, una statistica annuale. I numeri che ho in mente sono un po' più bassi di quelli che lei citava, forse lei ha citato l'aggregato degli incidenti complessivi, cioè in pratica quelli che derivano da gas canalizzato, quindi il metano in buona sostanza, e anche le bombole. Il cumulato dei due probabilmente dà dei numeri di grandezza di quelli che lei ha citato. In ogni caso, anche un morto, anche uno solo, è di troppo, in teoria, e quindi il fatto che siano 10 o 20 e che per esempio nei morti del sabato sera o le morti bianche sul lavoro o altri tipi di incidenti diano delle statistiche molto più preoccupanti, questo non ci esime dal prendere con la massima serietà, no? Questo tipo di argomento per cercare di minimizzare i danni. Allora io intanto voglio dire una cosa, perché quando succedono questi accadimenti, poi anche il modo in cui a volte viene presentata la notizia, chiaro, l'esplosione o un'esplosione della gravità di quella registrata via Brioschi, tende a ingenerare molta preoccupazione. Quindi diciamo che sostanzialmente l'uso del gas è sicuro, tra virgolette, sicuro nella misura in cui si prendono quelle che sono le normali precauzioni. E adesso questo ci arriviamo su questo. Sì, adesso ecco, ci arriviamo con calma, dottor Ronchi. La faccio concludere il ragionamento, perché prima in realtà volevo partire dalle cause più ricorrenti di queste fughe di gas e poi andiamo all'ABC della sicurezza. Diciamo, gli incidenti da gas avvengono sostanzialmente per due motivi: o perché c'è una fuga di gas la quale tende a saturare un ambiente e quindi a creare un'atmosfera esplosiva, e quindi questo tipo di incidente si manifesta con un incendio, con un'esplosione o con uno scoppio, e questo è un tipo di incidente che sono quelli che bucano di più anche da un punto di vista, diciamo, dei mezzi di comunicazione. Mediatico. Ecco, è mediatico, certo. L'altro tipo di incidente invece, l'altra categoria di incidenti, che è più subdola ed è numerosa da un punto di vista della numerosità maggiore, è quella delle intossicazioni per monossido di carbonio, ossia saturazione di un ambiente non di gas, quindi del combustibile, bensì del prodotto prodotto della combustione. Il gas che viene bruciato da una caldaia per il riscaldamento, per esempio, che produce monossido di carbonio, che è un gas altamente letale e che, al contrario del metano, quindi il combustibile, non è odorizzato, quindi non si percepisce dall'odore la sua diffusione, ed è un gas killer, nel senso che agisce direttamente e in tempi molto rapidi. E questo ovviamente avviene quando l'apparecchio che brucia il metano è difettoso, oppure quando sono difettosi i sistemi di ventilazione o di areazione dei locali. In entrambe le situazioni, dottor Ronchi, non hanno nulla a che fare l'incuria, la distrazione, l'errore umano, però, quindi l'errore individuale della persona. Allora, intanto lasciamo da parte un attimo i casi dolosi, nel senso, sfortunatamente a volte succede incidenti tragici, anche magari qui a Milano ci sono stati dei tentativi di suicidio, per esempio l'incidente di Lomellina di esattamente riportato dal Corriere stamattina. No, andiamo alle situazioni, quelli allora, che diceva. Le situazioni sono le cause possono essere, per quanto riguarda la fuga di gas, in genere, a meno che non ci sia una rottura di un tubo di un impianto o che il gas provenga dall'esterno, perché a volte capita che si rompe un tubo per strada e poi il gas cammina, come si dice, no? Trovando lo spazio e si incanala nel posto dove riesce a sfogare, va a saturare un determinato ambiente. Questo è un tipo di tipologia che però non è sotto il controllo, voglio dire, dell'utente domestico dell'appartamento. Nell'appartamento può avvenire una fuga di gas, diciamo che è assolutamente improbabile che si rompa un tubo, no? Quello che può succedere o che uno lascia aperto il fornello del piano cottura, o che comunque qui un po' di distrazione, la dobbiamo richiamare. Uno non si accorge che si è spenta la fiamma e il gas continua a fuoriuscire, oppure c'è un problema al tubo flessibile, che è quel tubo giallo che è sotto il piano cottura, che adduce il gas dall'impianto al piano cottura, che è un tubo che, secondo le norme tecniche vigenti, deve essere sostituito ogni 5 anni, perché tende a degradarsi. E forse non tutti lo sanno, non tutti lo sanno, dottor Ronchi, perché abbiamo fatto e facciamo noi ogni anno tante trasmissioni sul tema della manutenzione della caldaia, certo, della revisione appunto annuale, biennale, certo, quadriennale, insomma tutte le polemiche del passato anche sulla tipologia di controllo, ma sul tema del tubo e della sostituzione quinquennale forse un focus molto specifico non l'abbiamo mai fatto. Allora magari vale proprio la pena con lei rifare un punto sulle raccomandazioni su questo. Sì. Ok, diciamo che per quanto riguarda l'ambiente della cucina, 2 suggerimenti. Il primo suggerimento riguarda il tipo di piani cottura da utilizzare. Le norme tecniche vigenti, ma questo già da qualche anno, prescrivono che sia necessario installare, per la migliore sicurezza dei consumatori, piani cotturi dotati di quella che si chiama termocoppia di blocco. Cioè, in pratica è un sistema che blocca l'erogazione del gas nel caso in cui inavvertitamente la fiamma si spenga. Cioè la signora Maria che lascia il latte sul fuoco. Esatto, perché è una situazione che può capitare agli anziani magari. Certo. E allora, se il piano cottura è dotato di una termocoppia di blocco, questo dispositivo automaticamente, nel momento in cui si spegne la fiamma, blocca la fuoriuscita di gas. No, è una garanzia in più adesso. Esattamente. E quindi magari come figli e nipoti di persone che teoricamente potrebbero anche appunto essere vittime di queste dimenticanze, saliamogli una cucina a gas adeguata, ecco. Esatto, tenete conto che il CIG da ormai molti anni ha raggiunto, quando è stata aggiornata la norma tecnica che prescrive questa cosa, ha raggiunto un accordo con tutti i produttori nazionali di piani cottura, per cui tutti i piani cottura di produzione nazionale oggi in commercio sono sicuramente dotati di questo, di questo dispositivo, ecco, chiamiamolo, esatto, così. Per quanto riguarda invece il flessibile, è ovvio che si tratta di fare le opportune verifiche, ma qui entra in gioco il discorso della manutenzione. La manutenzione, io lo dico in generale, che riguarda certamente la caldaia, ma riguarda anche appunto il tubo. Com'è che l'ha chiamato lei poco fa? Il flessibile giallo. Sì, quel tubo giallo, in genere giallo, che c'è scritto sopra, sul tubo c'è stampato la data di scadenza. Bisognerebbe andarlo a verificare. Detto questo, la manutenzione è sicuramente un fatto importante. Il problema è che da un lato la manutenzione molto spesso viene vista come devo pagare un balzello. Esattamente, no? Guardi, parole sante, come, dottor Rossi. Come un onere, capisco che far intervenire uno, sì, un idraulico, esatto. Un idraulico, comunque se ne vanno almeno 100 euro, voglio dire, per fare la verifica e mettere il bollino sul libretto di impianto. Però è diciamo un'assicurazione sulla vita, perché poi i malfunzionamenti possono essere i più svariati, e un malfunzionamento di una caldaia, come anche di un flessibile, possono portare a esiti disastrosi. Quindi chiediamo anche ai nostri ascoltatori quando è l'ultima volta che si sono posti il problema non della revisione della caldaia, del flessibile giallo, del controllo fumi, ma quello del flessibile giallo, appunto, del tubo del gas. Grazie dottor Ronchi, stamattina facciamo partire da Cuore Denari una campagna di sensibilizzazione anche su questo. Quindi abbiamo completato il suo ragionamento sul tema del flessibile? Beh, sul flessibile sì, non c'è molto altro da dire. Io quello che a titolo di, diciamo, se volete anche chiusura, quello che suggerisco a tutti è: evitate assolutamente il fai da te, rivolgersi sempre a personale qualificato. Ricordo che recentemente sono state varate dal CIG una serie di norme che prescrivono i meccanismi attraverso i quali gli operatori del post contatore possono ottenere la qualifica. Si tratta di processi di certificazione volontaria, però è bene che l'utente, quando chiama, diciamo, la ditta per fare la manutenzione o addirittura per fare degli interventi sull'impianto, si accerti di quali sono le qualifiche che questi operatori sono in grado di mettere a garanzia della loro professionalità. Anche su questo tantissime polemiche, perché poi qualcuno ha lamentato il fatto che ovviamente i costi di queste ulteriori certificazioni dei professionisti venivano scaricati appunto sui cittadini e sui consumatori. Detto questo, io preferisco che venga a curarmi un medico con tutta la laurea necessaria. Non, no, ti Nicole? Fidi di me. No, esatto. Tenete conto che questi meccanismi di qualifica non è che siano poi così costosi, perché alla fine della fiera quello che deve fare l'operatore. No, anche perché loro pure devono aggiornarsi. Ma certo, cioè, ma è chiaro. Non è che gli impianti, le cucine a gas sono le stesse di 20 anni fa. Assolutamente, la qualifica serve soltanto a, come dire, certificare che l'operatore è sul pezzo, è aggiornato. Quindi in pratica significa fare un corso di qualche giorno e sostenere un esame. Questa è tutta la qualifica. Voglio dire, il costo per l'operatore non è tale da poter giustificare un incremento sconsiderato della parcella chiesta al consumatore. Senta, dottor Ronchi, prima di salutarla, ancora un paio di minuti, perché ci sono alcune domande di alcuni ascoltatori. Ne ha un po' Nicoletta su WhatsApp, però volevo far passare avanti, Nico, un attimo solo Bruno, perché chiede se il flessibile, quello di cui abbiamo parlato, no? Sì. Noi ci ricordiamo, ci richiama alla mente questo concetto, quello di gomma giallo, ma sono anche in alluminio adesso, mi sbaglio? Sì, e Bruno lo chiede. Quelli no. Quelli non devono essere sostituiti ogni 5 anni. Fare riferimento alle norme tecniche, ci sono quelli magliati che sono in metallo che non... Invece chi abbiamo, Nicoletta? Allora, noi abbiamo un ascoltatore che ci invita a ricordare che vanno fatti i fori nel muro. Soprattutto non vanno ostruiti i fori che ci sono. Quindi se uno non ha i fori deve farli. Anche qui fare riferimento alle norme tecniche. È chiaro che le norme tecniche, e quindi chi installa un impianto ne è pienamente consapevole, a seconda di dove i dispositivi, quindi da un lato le canne fumarie, da un altro lato i sistemi di ventilazione ove necessari, devono essere progettati secondo la regola dell'arte. Le norme tecniche prevedono tutte le casistiche con tutte le prescrizioni tecniche necessarie a garantire la sicurezza. Allora, Giovanni da Foggia voleva intervenire sul tema del tubo in acciaio. Direi che a questo punto, Giovanni, se è così cortese, appunto, potremo bypassare anche la telefonata. Dottor Ronchi, ma ci sono invece molte abitazioni in Italia che usano ancora le bombole a gas? Allora, sulle bombole a gas abbiamo degli usi ancora alti, ma non è che di per sé la bombola è... Una bomba d'orologeria lì pronta ad esplodere. Nella bombola ci sono problematiche di tipo diverso, non meno serie. Nel caso della bombola quello che succede è che anche qui bisogna evitare il fai da te, perché una delle fattispecie più pericolose è quella dell'autoriempimento. Di soggetti che prendono la bombola e se la vanno a riempire, per esempio, al distributore di GPL per autotrazione. Siccome nella bombola il gas, che non è metano ma è una miscela di propano-butano, è liquido, ed è quindi in equilibrio con una fase di vapore che copre la parte superiore della bombola, se si mette troppo liquido si crea una situazione di sovrappressione, per cui un piccolo sbalzo termico può innescare un'esplosione. Visto che ci troviamo, posso chiedervi la cortesia di ricordare una cosa molto importante. Certamente. Per tutti gli ascoltatori, che se ne va della loro sicurezza, noi amplifichiamo. La loro sicurezza è la tutela di un loro diritto. Non tutti sanno che il Comitato Italiano Gas, su mandato dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, sottoscrive ormai da molti anni una polizza assicurativa, di assicurazione, sì. L'avevo vista ieri sul vostro sito, nazionale, sì. Collettiva, che copre tutte le fattispecie per incidenti da gas. Quindi questa è una polizza che vale erga omnes per tutti coloro che sono titolari di un'utenza, e copre sia i danni, diciamo, per dirla volgarmente, nell'appartamento da cui ha avuto origine il sinistro, quindi i danni alle cose e alle persone, e copre anche la responsabilità civile verso terzi detenuta da chi ha provocato l'incidente. Quindi in pratica copre tutti i danni di tutti coloro che in un qualche modo sono stati coinvolti, quindi i vicini, dall'incidente. E questo... Quindi mi scusi, paradossalmente sul caso di Milano come potreste intervenire? Allora lì c'è la polizza che copre sia l'appartamento dal quale è avvenuto... La scoppio incendio, quella obbligatoria per la casa. Tenete, sì, conto che questo vale anche nel caso di situazioni dolose. Quindi anche nei casi di tentativi di suicidio o comunque di atti dolosi, eccetera, comunque l'assicurazione interviene. Detto questo, in questo caso è coperto l'appartamento dove ha avuto origine l'incidente, quindi presumibilmente dove sono morti sfortunatamente quei due ragazzi, e quindi c'è una copertura per la morte, c'è una copertura per i danni, e poi c'è una copertura con un massimale di 11 milioni di euro per sinistro per coprire tutti i danni collaterali a tutti gli altri appartamenti, anche di altri palazzi. Questa assicurazione ha dovuto indennizzare molto ultimamente negli ultimi anni. Noi abbiamo una media di chiaramente sinistri di questa portata, capita una volta ogni 10 anni. Per fortuna, speriamo che diventino, diciamo, ogni 50. Questa assicurazione, da quando la sta gestendo il CIG, stiamo parlando del 2004, sono 5 polizze che abbiamo sottoscritto negli anni, adesso stiamo per fare la sesta, sono stati erogati qualcosa tra pagati e riservati, qualcosa come oltre 50 milioni di euro. Ecco, perché sa che noi delle assicurazioni qualche volta non ci fidiamo molto, perché ce le fanno sottoscrivere, poi quando è il momento di indennizzare e risarcire le clausole spuntano come funghi. Allora, però stavolta le dico, intanto il prelievo a carico dell'utente è di poche decine di centesimi di euro. Ed è in bolletta, all'anno, no? Per utenza, ed è in bolletta. E non se ne vede uno, neanche. Due, no, diciamo, è veramente un prelievo irrisorio. Però abbiamo più di 20 milioni di utenze, quindi questo ci consente di mettere insieme un premio adeguato, che è del più di 10 milioni tutte di euro tutti all'anno. Dottor Ronchi, io devo salutarla perché abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, la ringrazio molto per la chiarezza di questa mattina e per tutte le raccomandazioni che ci ha dato per mettere in condizione di sicurezza la nostra casa. Peraltro tanti ascoltatori ci stanno continuando a scrivere: guardate che c'è il tubo d'alluminio, c'è quello di rame, quindi non sono tutti di gomma, l'abbiamo detto chiaramente, quelli non hanno l'obbligo di sostituzione ogni 5 anni. Grazie al dottor Ronchi, Michele Ronchi, direttore generale del Comitato Italiano Gas, a cui raccomandiamo di mettere sul loro sito tutte le raccomandazioni per fare un'adeguata manutenzione degli impianti della propria abitazione. Cara la mia Nicoletta, adesso dobbiamo andare a sentire che cosa succede sui mercati. Devo. Poi parleremo dell'intervento di Silvio Berlusconi, iniziato stamattina poco dopo le 8:30. Cercheremo di capirne di più. Verrà sostituita la valvola aortica per correggere l'insufficienza di grado severo che gli è stata diagnosticata. Cercheremo di capire che cosa succede, perché le valvole smettono di funzionare, se è sempre necessario l'intervento. Insomma, tanti dubbi per raccontare e anche dare delle indicazioni su come proteggere il nostro cuore. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta Cuore e Denari. E siamo tornati insieme, è iniziato poco dopo le 8.30 l'intervento di Silvio Berlusconi, necessario a correggere l'insufficienza aortica di grado severo che gli era stata diagnosticata durante gli accertamenti dei giorni scorsi. L'operazione verrà eseguita a cuore fermo, con circolazione extracorporea, e sarà il professor Ottavio Alfieri, primario di cardiochirurgia del San Raffaele, ad effettuare l'operazione. Un chirurgo, possiamo dire blasonato, che per primo ha realizzato un impianto della valvola aortica senza utilizzare punti e che viene chiamato autoancorante, e che tra l'altro ha anche inventato una tecnica operatoria utilizzata negli interventi sulla valvola la mitralica, che porta il suo nome. Insomma, come a dire, in ottime mani. Ma che rischio comporta questo intervento e come con che cosa verrà sostituita la valvola aortica non funzionante? E ancora una domanda molto semplice: perché le valvole smettono di funzionare? Danno dei segnali? Si può fare prevenzione? Bene, ci siamo rivolti a due grandi esperti del Centro Cardiologico Monzino di Milano e sono in linea con noi. Le ringraziamo e li salutiamo. Diamo il benvenuto al professor Pier Giuseppe Agostoni, responsabile dell'unità scompenso cardiologia clinica e riabilitativa. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. E in linea con noi abbiamo anche il professor Francesca Lamanni, responsabile dell'unità di cardiochirurgia, sempre del Monzino. Buongiorno professore, grazie. Buongiorno a tutti, grazie a lei. Allora, professor Agostoni, intanto ci aiuti a localizzare il problema e a capirne la portata. L'intervento a cui sarà sottoposto, in cui in queste ore è sottoposto il presidente Berlusconi, viene eseguito per correggere l'insufficienza aortica di grado severo, no? Ma la scorsa settimana il medico di Berlusconi, Zangrillo, subito dopo il ricovero, parlava di un episodio di scompenso cardiaco. Allora, ci aiuta a capire, sono due condizioni diverse, c'è una relazione di causa-effetto tra le due, sono due condizioni, due modi differenti di chiamare lo stesso problema? Dunque, la premessa è che nessuno di noi ha conoscenza del benché minimo dato sulla persona che si sta operando adesso, e quindi parliamo in termini generali. Parliamo della differenza tra scompenso e insufficienza aortica. Berlusconi allora ci dà solo lo spunto per affrontare oggi un tema che generalmente nell'attualità, dato che Cuore Denari prende spunto sempre dall'attualità, non abbiamo occasione di trattare. Perfetto, però non possiamo dire nulla di specifico. Quello che possiamo dire è che l'insufficienza aortica è una delle tante cause di scompenso. Okay. Per cui un malato di insufficienza aortica può sviluppare scompenso. Quindi se la valvola va in tilt il cuore perde potenza. Certo, perché il cuore deve lavorare di più. L'insufficienza aortica fa sì che il sangue che dovrebbe andare nella circolazione rientra nel cuore, nel ventricolo sinistro, e da questo deve uscire un'altra volta, e quindi fa un lavoro doppio. Quali sono i segnali, professor Agostoni? I segnali possono essere dei segnali clinici, tipo dei sintomi. Allora il paziente con insufficienza aortica ci dirà: mi manca il fiato, non sono più capace di fare lo stesso tipo di esercizio che facevo prima, se faccio le scale ho l'affanno, cose di questo genere. Però guardando il malato uno può anche vedere dei segni dal di fuori, anche semplicemente guardandogli il collo. C'è un vecchissimo segno che si chiama la danza delle carotidi, cioè si vedono le carotidi che si gonfiano e sgonfiano, ci sono alcuni segni sulle unghie del letto vascolare che diventano rosa e poi dopo diventano bianche e poi diventano rosa, proprio per un segno di una pulsatilità aumentata del polso nella circolazione. Cioè quello che cambia rispetto al soggetto normale è che la pressione sistolica, la pressione massima, è alta e la pressione diastolica, cioè la minima, è molto molto bassa, per cui la differenza fra le due è molto ampia. Diventa molto ampia, il polso è molto ampio e scoccante proprio per questo fatto. E poi abbiamo evidenziato anche due segnali, questa danza delle carotidi e poi l'aspetto delle unghie. Professora Lamanni, vengo da lei, perché per correggere l'insufficienza aortica bisogna sostituire la valvola, ma per farlo è necessario un approccio diretto al cuore. Sarà, come leggiamo, un intervento di cardiochirurgia convenzionale, ma tant'è che si deve in questo caso almeno aprire lo sterno, procedere con la circolazione extracorporea. In pratica le funzioni di cuore e polmoni vengono svolte da una macchina, e quindi fermare il cuore, aprire l'aorta. Ma quanto è rischioso questo intervento? E quali rischi potrebbe correre? Ma guardi, in linea di massima, innanzitutto premetto lo stesso ha detto il professor Agostoni, della vicenda del presidente Berlusconi sappiamo ben poco, se non che è soggetto ad un intervento di sostituzione. Sì, ce ne mettiamo a dire di fronte a una sostituzione a cuore aperto della valvola aortica, che tipo di intervento è e quanti rischi potrebbe comportare? È un intervento di cardiochirurgia convenzionale, come leggiamo? Sì, è un intervento assolutamente convenzionale e assolutamente rutinario. Diciamo, in caso di insufficienza valvolare aortica, è chiaro che noi dobbiamo sapere prima di tutto qual è il meccanismo dell'insufficienza, perché esistono altri interventi, non necessariamente di sostituzione della valvola aortica, che possono mettere a posto la valvola aortica, che è assolutamente inserita in quella parte di aorta che si chiama radice aortica e che diciamo, può provocare lei stessa l'insufficienza, mi spiego in altri termini. La valvola aortica è una valvola che funziona a geometrie. Quindi se si altera la geometria dell'aorta ascendente, qualche volta pur in presenza di una valvola aortica perfettamente normale, alterandosi la geometria la valvola diventa insufficiente. E questo è un caso. Esistono poi altri casi in cui è proprio la valvola che è malata, a questo punto non c'è alternativa e la valvola va sostituita. Purtroppo, nel caso dell'insufficienza aortica, l'unica strada che si può percorrere è quella della chirurgia tradizionale e quindi, come lei giustamente ha appena detto, mettere una circolazione extracorporea, che è la cosiddetta macchina cuore-polmoni, sì, in quanto dovendo aprire l'aorta il cuore deve essere fermo e libero dal sangue. Certo. Questa macchina ha una pompa che serve a far circolare il sangue quando il cuore è fermo e ha anche uno scambiatore di gas, un cosiddetto ossigenatore, che permette al sangue di essere ossigenato e privato dell'anidride carbonica, facendo assolutamente le funzioni del polmone. Questa è una metodica che è in uso da decenni e quindi molto ben consolidata e instaurata nel tempo. Con l'insufficienza aortica, come dicevo, è necessario farlo perché, a differenza di altre patologie della valvola, come ad esempio la stenosi, non ci sono tecniche alternative di tipo mini-invasivo, di tipo inserzione di valvole percutanee o di inserzione, come spesso facciamo, di valvole senza suture, in quanto l'alloggiamento della valvola non permetterebbe questo tipo di procedure, se vogliamo, più innovative, ma non attuabili nel caso dell'insufficienza. I rischi intrinseci all'intervento non sono drammatici, è un intervento che si fa da tantissimi anni e quindi è molto ben codificato e tra l'altro nel caso specifico il Presidente è in ottime mani. Il rischio aggiuntivo, se vogliamo, in chi arriva all'intervento scompensato è quello relativo alla funzione del suo cuore, perché è noto che in cardiochirurgia il rischio spesso e volentieri non è tanto tecnico, in quanto molte tecniche sono abbastanza rutinarie, ma secondario alla situazione generale e specifica del cuore, che meglio funziona, più bassi sono i rischi, peggio funziona, più alti sono i rischi. Stiamo sempre chiaramente parlando, certo, da un punto di vista generale. Assolutamente, lo vogliamo sottolineare. Con che cosa solitamente si sostituisce la valvola? Ci sono delle protesi? Sì, esistono delle protesi. Le protesi normalmente sono divisibili in due grandi gruppi, le protesi meccaniche e le protesi di tipo biologico. Le protesi meccaniche sono delle valvole che teoricamente durano tutta la vita, in quanto sono fatte di materiale misto metallico-plastico e quindi se uno proprio le volesse rompere le deve prendere a martellate. Sì, direi che non è il caso, difficili da raggiungere, no? Sono ben protette. Esatto, però è chiaro che anche le protesi biomeccaniche possono avere dei problemi, in quanto l'organismo produce del tessuto che può andare a dar fastidio alle cerniere della protesi. E soprattutto sono protesi che, essendo fatte di materiale plastico, richiedono una terapia anticoagulante molto ben fatta, molto ben seguita per tutta la vita. Questo è il motivo per cui molte persone che devono essere operate al cuore in quest'ultimo periodo preferiscono optare per l'altra valvola. Dico anche persone un pochino più giovani. Sì. Ma questa è una scelta poi del chirurgo, immagino, o è il paziente che dice: io voglio la valvola di quel modello lì, non ne voglio un'altra? è una scelta che deve essere consapevole e condivisa, perché se il rischio di una protesi di tipo meccanico è legato all'anticoagulazione, e l'anticoagulazione può far sanguinare, oppure in caso di errori può far formare dei trombi che, messi su una valvola, chiaramente non sono piacevoli. Si può arrivare dalle embolie alla, quindi sì, al blocco della valvola. Quindi sono protesi, diciamo, che hanno una manutenzione, tra virgolette, molto ma molto specifica e critica. Sì, professore? Di tutt'altra filosofia, se vogliamo, è l'impiego delle protesi di tipo biologico, perché sono delle protesi che non richiedono l'anticoagulante, protesi che quindi non hanno la possibilità di bloccarsi, non hanno molte meno embolie, hanno però chiaramente una scadenza che varia da individuo a individuo. In posizione aortica ormai con le nuove protesi si viaggia intorno ai 15-20 anni. Quindi direi che... Quindi quando un paziente supera i 60-65 anni, direi che una protesi biologica... Forse è la soluzione ideale. È la soluzione migliore. Anche perché non richiede queste terapie. Ci fermiamo un attimo per le informazioni sul traffico, perché volevo parlare, dare una notizia, perché nel prossimo futuro, che in alcuni centri è già presente, si potrà sostituire la valvola aortica senza fare ricorso alla protesi. Tra poco, dopo le informazioni sul traffico. Cuore e denari. Eccoci, siamo tornati insieme, parliamo prendendo spunto dall'attualità, in particolare dall'operazione al cuore del presidente Berlusconi. Naturalmente non entriamo nel merito, ma ne prendiamo spunto per raccontare che cosa e quando e perché le valvole possono ammalarsi e vanno sostituite, con che cosa vengono sostituite. In linea con noi abbiamo il piacere di avere due esperti del Monzino, il professor Alamanni e il professor Agostoni. Professor Alamanni, eravamo alla sostituzione della valvola. Io ho anticipato che nel prossimo futuro, in alcuni centri è già presente, si potrà sostituire la valvola aortica senza fare ricorso alla protesi, utilizzando lo stesso tessuto del paziente. La tecnica si chiama Ozaki, perché è stata inventata da un signore che si chiama così, e nel vostro centro al Monzino, primo in Europa, avete già effettuato due interventi. Immagino che la selezione del paziente sia fondamentale, ma sicuramente questa opzione rappresenta una bella svolta, un'ottima opportunità, no? È senz'altro un'opportunità in più. Prima di parlare della tecnica Ozaki, volevo giustamente brevemente terminare il discorso sulle protesi biologiche, di cui avevo detto il vantaggio, l'assenza di terapia anticoagulante, lo svantaggio è una durata limitata. Però in questo caso, per la durata limitata, 10-15 anni, talora anche 20, ci viene in soccorso la tecnologia, in quanto all'interno delle protesi biologiche, il momento in cui queste vanno a degenerare e quindi a ridiventare stenotiche nella maggior parte dei casi, si possono impiantare le cosiddette TAVI, e cioè le valvole transcatetere. Chiaramente selezionando. Quindi non si apre più di nuovo il cuore, fermo, etc., ma si fa un'operazione utilizzando delle tecniche minimamente invasive che evitano l'apertura dello sterno. Ma questo in un secondo step. Questo in un secondo step che chiaramente va quando costruito al primo intervento, perché le protesi devono essere abbastanza grandi per poter permettere l'alloggiamento di quello che poi viene chiamato nel nostro gergo valve in valve. E questa è chiaramente un'opzione che allunga la durata complessiva dell'intervento in maniera considerevole. Allora, si tratta di due durate di protesi biologiche. Professore, volevo solamente citare di questa nuova tecnica, della tecnica Ozaki, senza andare naturalmente nel dettaglio, ma a sottolineare che il Monzino ha già effettuato due interventi e che forse in un domani si potrà sostituire la valvola aortica senza fare ricorso alla protesi, utilizzando lo stesso tessuto del paziente. Perché vorrei passare la parola al professor Agostoni, che è ancora in linea con noi, ringraziamo per la pazienza, perché volevo che lei ci aiutasse, professor Agostoni, a dare due indicazioni, perché la prevenzione, no, È possibile anche in questi casi. Che cosa possiamo fare per salvare la valvola? Abbiamo... dirvi è che il chirurgo dice sì, apriamo, chiudiamo, cucciamo, ma poi se dovessi farlo io avrei qualche timore, perché non è proprio una passeggiata, anche se la facesse un domani per via emodinamica, anche con le nuove tecniche eccetera. Quindi prevenire è meglio che operare, diciamo così. Esatto, quindi questo è sicuramente il punto di partenza. Allora, la prevenzione dell'insufficienza valvolare aortica è essenzialmente prevenire la sua genesi. Qui bisogna dividersi fra aorte di base normali e aorte che sono patologiche. Sì, però diamo un'indicazione generale, perché il tempo a nostra disposizione è un po' limitato. L'indicazione generale è quella di tutte le volte che avete la pressione alta, abbassatela, tenete la pressione normale. Se avete l'insufficienza aortica, controllate la pressione il più possibile, perché così facendo riducete il ritorno in aorta del sangue, quindi riducete la quantità aumento della portata cardiaca che il cuore deve fare, che è quello che poi lo fa sfiancare, lo fa andare male e quindi fa poi lavorare il chirurgo. Per cui la prima cosa è controllate la pressione, fate in modo che la pressione sia la più bassa possibile per far lavorare di meno il cuore. Questo è la via maestra per cercare di evitare di andare a trovare il professor Alamanni. Certo, che non vogliamo vedere, ma professor Agostoni, quindi teniamo la pressione ben controllata, ma ha molto interessato il cenno che lei ha fatto a quei segnali che il medico può vedere, questa danza delle carotidi e le unghie. Dobbiamo visitare il paziente, c'è un reperto auscultatorio caratteristico dell'insufficienza aortica e che è quello di un soffio dolce è alitato. Questo è all'ascoltazione. Se voi sentite un soffio di questo genere, l'aorta nel 90% dei casi, raramente la polmonare, perde, il che vuol dire è un segnale di allarme. Non è normale ascoltare un soffio di questo genere. Se trovate in questo soffio, la prima cosa da fare è un'ecocardiografia Doppler, perché è l'esame per iniziare a fare la valutazione. Grazie professor Agostoni, torneremo forse a parlare di questo tra breve, intanto grazie per essere stati con noi, torniamo sempre domani. Alle 11.30, magari alle 10.30, ti stavo guardando il collo, delle mie carotidi, sono un po' botteriana, come quello di Modigliani. Buona giornata.